In questo lunedì 2 febbraio i titoli sono sempre su Mattarella, così il Sole 24 ore, Mattarella riparte dalle riforme, questo è il titolo di prima pagina, per il Corriere della Sera riforme la linea del Quirinale, per Repubblica Mattarella ricucirò gli strappi del paese, dietro fronte di Berlusconi il Nazareno vive, che messa così insomma il Nazareno vive, non è male. Il Messaggero, riforme, la mossa di Mattarella, questo è il titolo di prima pagina, e cioè invita domani al giuramento Berlusconi, e il giuramento è in Parlamento. La Stampa, la resa dei conti nel centrodestra, Libero, arriva la Lega delle Libertà, questo è il nuovo nome che vorrebbe dare Berlusconi alla Casa delle Libertà e poi Forza Italia. Lega delle Libertà per ricucire con Salvini. Il Giornale, Mattarella, chi paga il conto? Renzi costretto a saldare i debiti con la sinistra PD, debiti politici ovviamente. Mentre il Fatto Quotidiano, Silvio stai sereno, la Boschi dice il 3% è per tutti gli italiani. Questi alcuni dei titoli delle prime pagine dei giornali, come vedete tutte declinate allo scenari politici dopo l'elezione di Mattarella. Ma io voglio partire dalla Francia, da dove arrivano due notizie. La prima è quella che riguarda Charlie Hebdo, la rivista satirica duramente colpita dall'attentato a Parigi degli attentatori, dei terroristi islamici. E, che succede? Succede che Charlie Hebdo, dopo essere tornato in edicola con una tiratura di 7 milioni di copie vendute tutte, per il momento non torna in edicola. È un brutto colpo, siamo addolorati e stanchi, ci fermiamo, ma non è finita. Così Stefano Montefiori a pagina 18 del Corriere della Sera. Il primo problema lo spiega per esempio uno dei superstiti, Lutz. Oscilliamo tra l'essere considerati dei provocatori e dei cavalieri bianchi in difesa della libertà di espressione, e nessuno dei due ruoli è mai piaciuto a quei virtuosi dell'autoderisione che sono i designatori di Charlie Hebdo. L'ultimo numero, uscito il 13 gennaio, poi avevano annunciato il numero a fine gennaio, in realtà non è uscito, non apparirà neanche questa settimana. Per il momento il numero 1179 non si sa quando uscirà. C'è anche il contraccolpo psicologico per la tragedia che è stata, come spiega Gérard Bial, che è oggi il caporedattore della rivista, viene intervistato dal Fatto Quotidiano a pagina 5. La prima domanda è: Bial, che succede? Il giornale uscirà presto, assicura lui. Charlie Hebdo continua il suo cammino, ma abbiamo bisogno di un momento di pausa per riorganizzarci e superare lo stress. Non ci siamo prefissati una data precisa di uscita, stiamo riflettendo su ciò che vogliamo fare e quello che dobbiamo fare. Siamo rimasti una quindicina. Abbiamo perso persone che erano grandi disegnatori, grandi scrittori, che avevano grandi idee, persone che non erano in questo giornale per caso. E sono persone che non si rimpiazzano, non si trovano in un giorno, ma non siamo decapitati. Siamo senza 8 pilastri e per questo dobbiamo seriamente riflettere su come portare avanti il nostro progetto. La domanda è: ma dall'estero, chiede il Fatto, qualche vignettista non si è offerto per rinforzare la redazione? Per ora nessuno, risponde Gérard Biard. E dunque per il momento non esce Charlie Hebdo. Uscirà, promette Biard, presto, ma non si sa quando. Voglio rimanere in Francia però per una notizia di tutt'altro tenore e spessore. E oggi Repubblica torna. Insomma, c'è quasi un déjà vu rispetto ai verbali che venivano pubblicati quando c'erano le vicende delle olgettine di Berlusconi. Repubblica torna a pubblicare dei verbali, questa volta che riguardano un altro uomo potente, Dominique Strauss-Kahn, ricordate, ex capo del Fondo Monetario Internazionale, finito poi a processo a New York o a Washington, dove diavolo era, che però ora deve subire un altro processo in Francia per un giro di prostituzione con orge tra Francia, New York e Washington. E attenzione, attenzione ai verbali, i verbali, che oggi Repubblica mette a pagina 18, le serate libertine di De Esquet, Dominique Strauss-Kahn, l'uomo che sognava l'Eliseo. Ecco le carte dell'accusa. Eccole qui. Parla per esempio Jade, una escort. C'erano 7-8 ragazze intorno al letto, lui camminava nudo con il pene eretto, poi un carnaio, gambe, tette, culi, sopra e sotto di lui, senza preservativi. Nella stanza altri uomini nudi aspettavano il proprio turno, altri osservavano in disparte. Tutte le donne pensavano solo a lui, doveva essere soddisfatto in ogni modo, era il re della festa». Così inizia il verbale della confessione di questa escort. L'accusa per Dominique Strauss-Kahn sarà di sfruttamento aggravato della prostituzione. Imputato da altre 13 persone, tra cui due poliziotti, un avvocato, due intermediari, un giro di squillo d'alto bordo che parte da un hotel a Lille, passa per Parigi, Bruxelles, arriva fino a Washington e New York. Almeno 17 orge a pagamento. Tutte sviscerate in questi verbali. La difesa di Strauss-Kahn, anche qui un di che già sentito. Non sapevo che quelle donne fossero pagate. Ma sentite comunque i verbali ancora. Il PM risponde: mi scusi, Monsieur Strauss-Kahn, vuole davvero farci credere che lei è molto naif oppure è convinto che siamo tutti coglioni? Immaginava che tutte queste ragazze giovani, presenti unicamente per soddisfarla, fossero lì per i suoi occhi? E poi Dominique Strauss-Kahn, sentite ancora con il PM, come si svolge abitualmente una serata libertina, chiede il PM. Generalmente, dopo che si è consumato un pasto, si formano coppie che hanno relazioni sessuali, risponde Strauss-Kahn. A proposito delle serate cui allude, effettivamente c'erano diversi uomini e diverse donne che finivano per accoppiarsi. Si formano per affinità queste coppie? Per esempio, risponde Strauss-Kahn. E poi definizione di libertino, colui che si abbandona ai piaceri carnali con una libertà che supera i limiti della morale convenzionale, della sensualità borghese normale, ma anche con un certo raffinamento culturale. Lei, Strauss-Kahn, si riconosce in questa definizione? Volentieri, risponde Strauss-Kahn, che definiva nelle intercettazioni le donne delle orge. Amichette, regalo, piccolette, materiale, oppure cosa porterai nei tuoi bagagli? Vabbè, in realtà alcune delle escort definiscono queste orge una mattanza. Questo lo definisce Ines, un carnaio, dice invece Jade. E vi risparmio i racconti più crudi, tipo di sodomizzazioni, che trovate tutti spiattellati su Repubblica a pagina 18 e 19. E vabbè. Ma siamo al momento dell'articolo che oggi mi fa più incazzare in questo lunedì. E voglio andare al Corriere della Sera, dove Sergio Rizzo si concentra, non è la prima volta, sul buco nero delle società di servizi pubblici, soprattutto a Roma, dove gli autisti guidano la metà che a Milano. Gli autisti dell'ATAC guidano la metà di Milano. I raffronti, chiudere baracca e burattini, scrive Sergio Rizzo. Per quanto fosse l'unica soluzione accettabile, nessuno prima d'ora aveva mai voluto guardare in faccia la realtà. Il Comune di Roma, caso unico più sul pianeta, possiede una propria compagnia assicurativa che copre dai rischi tutti i suoi veicoli. Per cui nessuno batté ciglio quando un paio d'anni fa ci fu un indennizzo astronomico di 1.200.000 euro versato da questa compagnia al tronista di Uomini e Donne Karim Capuano, che era andato a sbattere con la sua Smart contro un autobus. Per dire, c'è una compagnia assicurativa. Ma poi i conti dell'AMA, gruppo da 11.000 dipendenti, con una città sporca, sporchissima. L'AMA è quella che deve raccogliere i rifiuti. Nel rapporto scritto un anno fa dagli ispettori della ragioneria ci sono pagine che fanno riflettere a proposito della controllata multiservizi che si occupa della pulizia delle scuole. E poi ancora l'ATAC, non esiste al mondo città più congestionata di Roma, 2.800.000 veicoli per poco più di 2.800.000 persone, un record inarrivabile, praticamente c'è un autobus a testa. un autobus a testa per ogni cittadino. Ce ne sono 978 per ogni 1000 abitanti, con 700.000 tra moto e scooter. Una follia. A Parigi i veicoli circolanti ogni 1000 residenti sono 415. Ma soprattutto non guidano gli autisti dell'ATAC, guidano la metà che a Milano. Vogliamo continuare? Continuate voi, lo trovate sul Corriere, perché a me sinceramente basta così. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il presidente dell'informazione. Eccoci qua. Allora, buongiorno presidente, ricambio ovviamente i saluti. Allora, cari lettori dei giornali, devo fare un appello e un appello pubblico. Tenete duro ancora qualche giorno, perché si sa, l'ho detto, i primi giorni dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, sono giorni in cui i giornali sono pieni di paginate barocche, con una melassa retorica insopportabile. Nessuno di voi la sopporterebbe neanche per il vostro cagnolino di fiducia, ma invece quando succedono queste cose, le elezioni di personalità importanti dello Stato, succede questo. Ecco, ve lo faccio capire che cosa succede. Pagina 2 del Corriere della Sera, la prima pagina, appena uno apre sfoglia la prima pagina, la messa e la foto con le suore. Poi Mattarella vede Napolitano, racconto della prima giornata con le suore, che ovviamente ritroviamo a pagina 3 di Repubblica, le suorine che non hanno resistito a un selfie. E una di queste tre viene anche intercettata da Tommaso Ciriaco e dice questa frase notevole, di notevole importanza, e cioè... si vede dallo sguardo che il presidente è una brava persona. Pregherò per lui. Dichiarazione della suorina, di cui non c'è il nome, a pagina 3 di Repubblica. Oppure succede questo, si dice cercavamo un arbitro, eccolo qui, pagina 3 del secolo XIX, parla il suo amico di lunga data Salvatore Butera, anche da giovani nelle partitelle faceva l'arbitro. No, io non ci volevo credere. Ecco, volevamo l'arbitro, eccolo qui, Salvatore Butera, amico di lunga data, dice che anche nelle partitelle da ragazzi Mattarella faceva l'arbitro ed era super partes, non era un arbitro venduto, era un arbitro super partes. Pagina 3 del secolo XIX, ovviamente si aggiunge che era sobrio e di poche parole. La Baldoria non sa cosa sia. Oppure troviamo pagina 5 del Messaggero, dalla A di arbitro, per l'appunto, alla P di panda, perché gira in panda, ha tre stipendi, cioè emolumento della Corte Costituzionale, pensione, vitalizio da ex parlamentare, ora non avrà questi ovviamente, ma gira con la panda, comunque dalla A di arbitro, B come balena bianca, C come comunicazione, fino alla P di panda, Z come Zagrebelsky, dalla A alla Z l'alfabeto di Mattarella. Oppure trovate una pagina intera a pagina 6 del Corriere della Sera, in cui c'è per mezza pagina chi saranno i collaboratori, il portavoce, il segretario generale, chi saranno? Lo so che voi anche nelle vostre lunghe colazioni del lunedì vi starete chiedendo chi saranno i collaboratori dell'arbitro super partes. E poi c'è un'intervista a padre Antonio Spadaro, gesuita, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, un teologo anche molto vicino al gesuita Papa Bergoglio, che dice: sarà un presidente ed è un presidente dalla fede non muscolare. Dalla fede non muscolare. Questa è un'intera pagina, pagina 6. E poi capite che quando il Corriere della Sera oggi deve riempire le prime 15 pagine, credo, dedicate al Presidente della Repubblica, rispolvera anche un'intera pagina, intera, di intervista a Francesco Rutelli, che glorifica così, intervistato da Andrea Garibaldi, l'ennesimo prodotto della Margherita, la sua creatura politica. E già al titolo vi potete fermare, perché Rutelli dice: eccola qui, è la mia Margherita, dal premier al presidente siamo come il vivaio del Barcellona. E allora, laddove vedi che in una stessa frase viene messo il vivaio del Barcellona, la Margherita e la politica italiana, sei arrivato abbastanza alla frutta nella lettura dei giornali. Ma la melassa retorica continuerà ancora 2 o 3 giorni. Poi, io sono certo che torneremo a occuparci anche di cose vere, reali, concrete, serie, se mi si permette questo affronto alle istituzioni. Comincia a diventare anche un pochino stucchevole il fatto di andare a scavare nel passato. Oggi c'è il Fatto Quotidiano che intervista Claudio Martelli, che racconta le ombre sul padre di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Ricorda la relazione, pagina 575 della Commissione Antimafia, in cui Pio La Torre analizzò un passaggio al di campo della mafia dal 48 al 55. Si legge in questa relazione, snocciola Claudio Martelli: la regione siciliana fu impiantata da uno schieramento politico che era l'espressione organica del blocco agrario del sistema di potere mafioso. E La Torre spiega verso quali forze politiche si orientarono le cosche mafiose. Una parte fu la risposta, si orientò verso la DC. Uomini come Aldisio, Milazzo, Alessi, Scelba, Mattarella. Ecco qui ovviamente padre. Sergio Mattarella, all'epoca della polemica, non aveva capito o faceva finta di non capire, così Claudio Martelli, che comunque dice del neopresidente: oggi quest'uomo merita rispetto. Quella foto del 6 gennaio 80, la foto in cui Sergio Mattarella soccorse il fratello Piersanti appena ucciso dalla mafia o stava morendo, quella foto è l'immagine di un dolore indicibile, instancabile, che non passa mai, una sorta di battesimo, una vocazione originaria. Ma la santificazione? No, non mi piace, aspettiamo. Così Claudio Martelli. Comunque, al di là di tutta questa melassa barocca retorica, ci sono gli aspetti politici che invece sono importanti per la tenuta di governo. Tutti guardano al centrodestra. Il centrodestra ha subito questa botta molto dura. La notizia più interessante ce l'ha Libero, che oggi esce in edizione straordinaria, il lunedì, di solito non è in edicola. In prima pagina Libero ha questa notizia: arriva la Lega delle Libertà. Secondo quanto scrive Libero, Berlusconi avrebbe annunciato all'assemblea con i grandi elettori di Forza Italia la volontà di cambiare il nome del partito da Forza Italia a Lega delle Libertà. Ovviamente dal nome Lega potete capire che l'intento di Silvio Berlusconi è quello di riavvicinarsi alla Lega di Salvini. Staremo a vedere se viene smentita questa notizia o è un lavorio che c'è. Certo, il centrodestra ribolle, come scrive Repubblica. Sentite l'intervista a Maria Rosaria Rossi, intervistata a pagina 7 da Carmelo Lopapa. Dice chiaramente: Verdini si faccia da parte, ammetta il suo fallimento. Di fronte a questi risultati mi sembra chiarissimo il fallimento, e devo dire che mi sarei aspettato, soprattutto da parte di Denis Verdini, una presa di responsabilità pubblica del fallimento e non invece il tentativo di attribuire o far attribuire ad altri colpe che non hanno. Risponde anche a Fitto, che chiede l'azzeramento del partito. Azzerare è un termine che a me non piace. 20 anni di storia e successi di Berlusconi non si azzerano, ma ben vengano i cambiamenti. Che succede nel centrodestra? Questo è il tema più interessante. Intanto c'è un segnale. Il segnale è questo, come scrive il giornale a pagina 3, ma lo trovate un po' ovunque. Il segnale di Mattarella invita Berlusconi al Colle. Lo invita al Colle, telefonata al Cavaliere per averlo al giuramento di domani, e poi il saluto ai predecessori. E insomma, diciamo che l'invito al giuramento è interessante. E anche Repubblica scrive: la missiva recapitata ad Arcore in queste ore, Berlusconi è invitato dal Parlamento in seduta comune a partecipare domani alla seduta di insediamento del presidente Mattarella. Questo è l'altro segnale, cioè Berlusconi, che non potrebbe mettere piede per il momento in Parlamento, è stato invitato dal Parlamento a partecipare alla seduta comune per il discorso di Mattarella. Che farà? Dovrebbe assistere dalle tribune, lassù in alto. Non è detto però che accetti. L'orgoglio fa pugni con la tentazione del gesto di cortesia istituzionale nei confronti del nuovo inquilino. Ma sta decidendo, raccontano. La questione è soprattutto capire le riforme. Che sarà di queste riforme? Berlusconi le porterà avanti queste riforme? Riprenderemo tra poco il discorso. Vedremo il centrodestra, vedremo anche il centrosinistra. Prima però, se in questi momenti di difficoltà, perché è lunedì, perché siete affaccendati in tante faccende, siete preoccupati, perché la settimana si prospetta pesante, dovete sempre pensare una cosa, sempre in questi casi. Pensate che meno male che c'è l'Inter. Ecco, questo sì, sempre dovete tenerlo presente. E Mauro Meazza ne sa molto più di me, voglio salutarlo. Buongiorno Mauro, come stai? Buongiorno, buongiorno, ma sono contento perché hai ritrovato veramente un'attenzione anche per il campionato. Ma vedevo che anche il vostro allenatore sorrideva ieri a fine partita, era contento. Vedi, anche lui. Ma sì, bisogna togliersi questi sassuolini dalla scarpa, insomma. Fa bene, anche vedo che il clima è sereno, visto che anche i nostri giocatori nei confronti dei tifosi, quindi le cose vanno per il meglio, bene, perché è cominciato febbraio, sai che febbraio è un mese decisivo, posso dire decisivo? Dillo. È un mese decisivo, no, a parte che oggi sul Sole 24 ti raccontiamo, perché questa è una settimana abbastanza cruciale, non voglio dire decisiva, per le questioni del debito greco e dell'Eurozona, quindi sul Sole 24 Ore di oggi trovi le analisi proprio su questo punto, ma decisivo perché aspettiamo che si completi la riforma fiscale, caro Alessandro. Il 20 febbraio è stato il giorno indicato dal governo per presentare i decreti mancanti, vediamo. Marco Mobili oggi sul Sole 24 Ore spiega quale potrebbe essere la direzione presa. Tra l'altro ti ricordi la famosa soglia del 3%? Come no? Certo. Lì sembra che il governo voglia tenere comunque il punto. Ieri il ministro Boschi pare che abbia detto vale per tutti gli italiani, non per Berlusconi, questa è l'accusa che è stato difficile il contrario, mi viene da chiosare, ma me lo terrò per me, non lo dirò a voce alta. Invece ti voglio dire che post telefisco abbiamo ancora oggi delle risposte ai quesiti, specialmente sulla vicenda dell'IMU agricola, un giorno credo che se ne farà una pièce tale su questa storia dell'IMU agricola. Può essere. Sì, gli spunti ci presenti sono anche i forconi, ovviamente. Ma vediamo, oppure ne facciamo una cosa shakespeariana. Sì. E comunque parliamo di IMU agricola e parliamo anche di rimborsiva. E poi di certificazione unica è l'altro motivo per cui febbraio è decisivo, perché bisogna produrre la nuova certificazione unica. Se non fai la sigla delle due, delle due parole ti sono grato, perché così non mi metti in difficoltà. Grave difficoltà. Sai che l'anno scorso avevamo il CUD e già era imbarazzante, quest'anno è caduta la D, e quindi questo per me che mi tocca parlarti alla radio tutte le mattine diventa è un po' dura, ma noi i nostri ascoltatori hanno una grande immaginazione, possono arrivarci. Diciamo che avremmo bisogno, anche la mia squadra forse avremmo bisogno un po' di questa certificazione unica, ci farebbe bene. Ti sei tolto i sassuolini? Sì, te l'ho lanciata io. Ma è chiaro che poi di fronte ai sassuolini noi ci inchiniamo per reverenza presidenziale, sai. Tu sarai contento e soddisfatto? Speri di perdere tutte le settimane col Sassuolo? Sì, si sa. Per fedeltà aziendale. No, naturalmente non c'entra, anche se vabbè, abbiamo visto che, come dire, abbiamo preso una discreta piastrellata, ecco, potremmo metterla giù così. Giusto per restare in tema, questa non so quanti ascoltatori possono averla capita, lasciamoci con questo dubbio. Alessandro, lasciami nel leggere e a meditare sulle risposte di Telefisco, che mi interessano. Ottimo. Molto. IMU agricola, traffico. Alessandro Milan, il panino Cameusa dell'informazione. Ottimo, gustoso. A quest'ora forse un po' rimane un po' così, però va bene comunque. Allora, alle 7:47 minuti dicevamo che la politica ora si interroga sulla dopo elezione, c'è un centrodestra in fibrillazione, c'è Verdini soprattutto che può saltare, questo è almeno il titolo di pagina 8 del Corriere della Sera, Forza Italia ribolle, Verdini può saltare. Sentite cosa ha twittato ieri Edoardo Silo Slabini, che è il responsabile cultura del partito e incidentalmente anche il marito di Luna Berlusconi, cioè la nipote di Berlusconi. Ha twittato così: d'accordo con Fitto, Forza Italia ad azzerare, il primo ad andarsene sia lui e si porti via anche Verdini. Insomma, all'interno di Forza Italia si capirà se Verdini sarà colui, insieme a Gianni Letta, che continuerà a trattare per le riforme con Renzi, o se Berlusconi vorrà farlo in prima persona. Ma anche nel centrodestra, o meglio nel nuovo centrodestra, dopo la capriola di Alfano, che prima aveva detto non votiamo Mattarella, poi ha detto votiamo con gioia Mattarella, e beh, anche lì c'è molta fibrillazione, l'ho detto. Sacconi del nuovo centrodestra si è dimesso e fa un paio di interviste, intervistato dal Giorno, dice a pagina 7, intervistato da Francesco Ghidetti: le mie dimissioni irrevocabili, margini di ripensamento nessuno, stanco ma che, arrabbiato con me stesso, non vado però via dal partito. Parlerò con Alfano, gli sono leale, vorrei aiutarlo proprio in questo momento di difficoltà, ma certo non farò più il terzino sistemista del governo e mi adopererò per reagire al metodo Renzi, che pratica un metodo cinico né in colore né in odore, ritiene che il rapporto con le aree politiche sia come una corsa in un taxi. Insomma, in concreto che farà? Beh, cioè, che fa Renzi? Usa tutti per consolidarsi, ma dimentica che per fortuna in ogni area politica esistono convinzioni profonde che sono il prezzo da pagare per una corsa in taxi. Così Sacconi per il nuovo centrodestra. Ma ne parleremo tra poco di politica. Intanto vi ricordo che domani ci sarà Tsipras a Roma, ecco, per parlare di cose concrete. Tsipras è a Roma, parlerà con Renzi, che ieri ha dialogato al telefono con Angela Merkel. La questione è quella del debito della Grecia, delle riforme, delle promesse che la Grecia aveva intrapreso con l'Unione Europea e che dopo le elezioni di Tsipras tutti guardano a vedere le manterrà o non le manterrà. Attilio Geroni sul Sole 24 Ore racconta l'inizio per la Grecia e per l'Europa della settimana del realismo. Dopo che nei giorni scorsi ognuno si è sforzato di marcare il proprio territorio, la missione di Tsipras, oggi a Cipro, domani a Roma e Bruxelles e mercoledì a Parigi, dirà molto di più sulla distanza che separa Atene dai creditori e soprattutto quali sono i margini di un compromesso sul debito e sul piano di bailout che scade a fine mese. L'incontro in serata a Parigi tra il ministro delle finanze greco Varoufakis e il collega francese Michel Sapin è stato un primo assaggio di questa offensiva diplomatica e si è concluso con parole confortanti. La Francia dice: aiuteremo Atene a raggiungere un accordo con i partner europei e a restare nell'euro. Staremo a vedere, c'è anche interessante come è suddiviso il debito greco, una spiegazione in grafica sul Sole 24 Ore. Venendo invece alle questioni italiane, è interessante la pagina di Dario Di Vico sul Corriere della Sera, analizza una nuova, si può dire anche moda, nel mondo del lavoro, soprattutto dei giovani, quella di buttarsi nel mondo della ristorazione. I piccoli ristoratori aprono nelle città, ma attenzione, uno su quattro chiude nel giro di 2 anni. Il 40% di chi avvia bar e bistrò ha meno di 35 anni, quindi un lavoro che attrae molto i giovani, ma spesso mancano le competenze, per questo nel giro di 2 anni si chiude. Scrive Dario Di Vico sul Corriere: i dati sono eloquenti, in almeno 3 delle maggiori province, cioè Roma, Milano e Torino, l'apertura di ristoranti e bar va a ritmo sostenuto. Nei primi mesi del 2014 a Torino ne sono stati inaugurati 576, a Milano 679, a Roma 687, si viaggia grosso modo alla velocità di 2 al giorno. Molti commercianti passano la mano, spesso i figli non vogliono seguire le orme dei padri e allora ecco che i giovani si buttano in questo campo, ma il tasso di sopravvivenza di queste nuove attività è di circa 2 anni. Le associazioni non hanno dati certi, ma nel giro di 2 anni il 27% dei nuovi esercizi chiude, appunto, e questa percentuale sta salendo a vista d'occhio nel caso degli under 35. Però interessante questo trend. quanto ci vuole anche per aprire un'attività, in genere 800 euro a metro quadro, questo è il calcolo da fare. Interessante, perché molti però poi chiudono, però è interessante il trend di buttarsi in questo settore. C'è una notizia di cronaca che riguarda invece Margherita Hack e il giallo del suo testamento. Perché racconta il Corriere della Sera, ieri credo era anche sul Libero, Giusy Fasano, Margherita Hack, il caso della badante unica erede. Margherita Hack nel 2003 aveva a 81 anni e 10 ancora da vivere, redatto un testamento mettendo il suo patrimonio anche all'EMPA, cioè all'Ente Protezione Animali, al Gattile, al Rifugio Astad, disposizioni da eseguire alla morte mia e del marito Aldo, ma le cose sono andate diversamente. Alla morte del marito, poi tutto è andato alla badante. Alla badante Tatiana Ghiergo, donna da sempre badante di Aldo e Margherita, ma lei si è ritenuta sempre più di una badante. Un lungo rapporto di affetto e amicizia mi legava a loro. Ai ai, il caso della badante unica erede. Il testamento di Margherita Hack. Va bene, forza Milan, dico solo questo per il calcio. E sono al momento della carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Una pagina del giornale di Daniela Uva. Le nemiche del ritocchino che adesso fanno tendenza, da Meryl Streep a Monica Bellucci, a Megan Fox, a Kate Winslet, a Susan Sarandon. Il dilemma del ritocchino. Ma chi se ne frega!